diciamo, con, non certo con la prepotenza, ma con le dovute mani. Gianni, non è che potete spostarvi, che stiamo parlando, siamo una carovana, stiamo parlando di lavoro e cose. Io lo faccio volentieri perché so che è gente che sta lavorando, e a me disturbare chi lavora per educazione non lo farò mai. Poi si tratta sempre di avere un po' di buon senso, di educazione, si appartiene di uno che da parte dell'altro. Io la penso così, se uno mi chiede una cortesia sono pronto a fare la virtù. Naturalmente quando mettono portate, quando fare più potenti, allora sono dalla parte tua. Nel senso che uno può chiederlo diversamente, no? Con la portante può chiederlo diversamente. Potete per cortesia spostarvi che stavamo parlando di lavoro, ecco. Sì, Gianni, io vabbè, io con tanto rispetto, con tutto rispetto farei coloro che stanno lavorando in un determinato canale, ma io vorrei sapere, siccome tu hai accennato che il canale è di tutti, tutti i canali sono di tutti, quindi non c'è una predisposizione di un canale per determinati personaggi o determinati tipi di frequentatori di questo canale, vorrei fare una specifica su questo, perché in un certo momento, ma caspita, ma siamo italiani o cosa siamo? Roboti, non siamo dei roboti, siamo delle persone, allora vi vorrei capire questo, quale criterio è quello di modulare in un determinato numero di canali specifico per alcune persone o per altre? Allora, il canale 5 fatto è un canale di tutti, allora perché si è stabilito che in questo canale devono modulare determinate persone e non altre? Allora, se in questo canale sono entrato io a parlare e ci sono altri, c'è una combriccola di modulanti, perché questi non fanno un break e chiedono l'accesso a entrare e dire un messaggio a questi altri, spostiamoci tutti su canale 6 o 7 o 8, perché devono modulare per forza su canale 5? Non riesco a capire questo parametro, cioè con quale criterio questi vogliono per forza modulare su canale 5, ma che legge è questa? Tu non ti sei spiegato molto bene, vorrei capirlo più specificamente o già. No, specificatamente che il canale, l'ho detto chiaramente, che il canale è un canale di tutti. Poi rispetto al buon senso della persona, rispettare chi lavora o meno, io la vedo così. È come quello che c'ha e hanno tutti e due i segnali dare precedenza. Aspetta al buon senso dell'autista, dare la precedenza all'altro. Non è che all'unico, però al buon senso di darlo all'altro. Mamma mia, allora non mi sono spiegato molto bene, ma scusate gli altri, abbiate pazienza, vorrei capire questo, perché forse non l'ho capito bene, cosa significa modulare sul 5 o sul 6? Se vedi che il canale 5 è occupato, uno che vuole entrare fa un break, un attimino, tac, allora chiede agli amici, passate, gli amici gli fa i nomi, passate sul 6 o sul 7, qual è il problema? Ma perché devi far spostare tutti quanti gli altri per entrare tu? Ma tu chi sei per poter pretendere di entrare in quel canale? Ma vorrei capire questo, ma ti rendi conto che è una tontata che non sta né in cielo né in terra? No, ma infatti non c'è nessun obbligo, io ho detto chiaramente, non c'è nessun obbligo di farlo. Però siccome io sono andato come lavorano i camionisti, per dire ci sono delle carovane che uno per dire da una parte e l'altra dall'altra, sanno che si trovano sul canale 5 tutti quanti, come c'è la carovana che si trova sul 10, insomma si trovano su quel canale, sanno che si trovano su quel canale, magari sono uno lontano dall'altro. Però sanno che si trova la colonna su quel canale, accendono su quel canale, trovano gente e chiedono cortesemente chi è educato, chiede cortesemente, chi non è educato parla male e viene rispondendo. Se mi parlano male io gli rispondo male, mi adeguo sempre alla persona come è fatta. Poi ognuno la vede a modo suo, Vito. Comunque per legge il canale di detto questo chiudo qua. Ecco Gianni. Avanti. Sì, ciao Gianni, un buon pomeriggio a tutti, sono Giuseppe Cambio. Ciao Giuseppe, vedi, questo è un autista Giuseppe, lui capisce come funziona, Vito. Avanti Giuseppe. Sì, grazie Gianni, sei un amico. Senti, volevo chiederti, sto facendo una prova, mi puoi dire gentilmente come sto scendo, cambio? Prova modulare, la radio è buona, il cilindro lo guardate, prova. Come sto scendo Gianni? Vai bene, dai, se io tra sedere l'altro giorno, sto scendo appena più forte. Ok, ti ringrazio Gianni. Scappa. Cosa stai facendo con il apparecchio del carro? No, sto facendo alcune prove, mi hanno consigliato di mettere una piastra di rame sotto l'antenna e sto vedendo un pochino come riesco a uscire, cambio. Una piastra di rame? Ma sotto la forma? Sì. Ma cosa, quali con la attaccata al palo? Proprio che non riflettete, sarei scelto sicuramente. Ma cosa? Che comincia le cose come... Riprese? Ti posso dire come l'antenna del televisore, poi attaccata al palo quella. E non so che è così, non ha bisogno manco di massa. Ma per dire, sento Luigi cosa gli ha detto Albino. Che se tu metti l'antenna del baracchino vicino a una parabola, arriva a me. Ma quella si fa negli antenne di macchina, non quella lì, che è pittina, quella si attacca al palo e basta. Dante, sono pensato. Capa, riprendi Vittorio. Sì, mi ha ritratto Falco, te? Comunque devi arrivare alle 9:15, un certo di l'altro giorno arrivava alle 9:10. Capa, aveva fatto qualche cosa, ma... comunque poi si attacca al palo, si attacca, no, mentre annuta, come cavolo fai a metterci la cosa? È un po' strano, Non lo so, ce lo spiegherà lui. Oh Giuseppe, spiegaci come hai fatto a fare questa roba. Mi sento. Niente, già. Perché parlate quando stanno parlando gli altri? Io non lo capisco. Aspettate un attimino. Giuseppe. Eccolo. Ripeti che non ho copiato, che involontariamente hanno parlato sotto. Ok, dicevo che io l'antenna l'ho messa sulla capota della barra pesante e dopodiché sotto mi avevano consigliato di mettere una piccola piastra di rame, cambio. Vedi, non avete fatto bene parlare, lui sta parlando della barra pesante, non di casa. Capaga, perché lui è giusto, perché ti fa la piano riflettente. Che te ne hai messo, Giuseppe? Ma ho messo una Midland, però non mi ricordo che marca sia, me l'ha data Massimo e devo essere sincero, dopo che l'ho piazzata ho buttato via tutto e non so che diciamo che sigla abbia, cambio. Ah, cavagà. Adesso dove sei? Perché stai arrivando con un segnalone. Ma io adesso sono qui sulla 131 all'altezza di, diciamo, dell'ufficio delle entrate, cambio. Cavolo, stai arrivando bene. Meglio così, vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro già. E adesso sei 9:20, stai ancora aumentando, ma stai andando verso Sassari. Sì, sto rientrando giù in stabilimento, cambio. Cappa Giuseppe, va benissimo, dai. Sono in compagnia di Vittorio, di cosa? Di Bombolo, di Antonio e di Falchetto. Avanti per chi vuoi. Sì, ma era giusto per salutarvi e darci appuntamento o magari per questa sera già. E ne approfitto per salutare tutta la ruota e augurarvi una buona serata. Cappa, ti ringrazio Giuseppe, ci sentiamo stasera. Allora, avanti Vittorio. Ti saluto Giuseppe, se stai andando in QTH per lavoro eccetera, tutto qua. Va benissimo, lancio adesso a chi posso lanciare, non so, Antonio o Facco, vedete un po' voi, vai per te Facco. Cappa, saluto Giuseppe, dai, poi magari stasera scenderai da casa. Ce la risentiamo stasera, dai, o più tardi. Salutoni dai, Giuseppe, anche da parte mia, dai, o rientro con tutto, ce la ascoltiamo magari a più dopo, dai, riprendi Vittorio. come il discorso, non c'è problema sotto quell'aspetto là, è che molte volte i criteri non sono uguali e quindi ci si ragiona in quella maniera lì. Infatti, ma ci sono anche dei camionisti, come ho visto Giuseppe, si adeguano al QSO, entrano, salutano, educati, ci sono quelli che sono un po', diciamo, un po' maleducati, dico la verità, entrano, si parlano sopra, se ce la fanno, capito? Lo so, però io sai cosa ti dico, molte volte anche noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo i nostri nervosismi dovuti a situazioni familiari anche che potrebbero avere qualche concesso, e quindi che cosa succede? Che devi lavorare col cervello, purtroppo come lavora, occhio per occhio, dente per dente, e quindi devi ragionare così. Vabbè dai, i problemi quando siamo alla radio dobbiamo lasciare un po' da parte, anche perché la radio è fatta per rilassarsi, per stare tranquilli, sin quando si trova gente tranquilla. K, avanti, fa che fa. Anda bene, vero? Ok, sì, adesso vediamo, ne approfitto che devo fare delle commissioni, dai. Saluto tutta la ruota, Vittorio, Gianni, Antonio, dai, ce la riascoltiamo tutta dopo se coincide, dai. Ciao ciao da parte mia, dai, QRX da parte mia. Ciao, anche dai, ce la risentiamo. Poi stasera se ci si vorrei fare una prova, a vedere come si manda laterale qua a Parecchio. Se te lo dico io come devi fare. Diciamo che la mia adesso sta avendo i suoi anni, sia vacillati per giorni. Anche quello è vero, ma mi do il cuore, non vacillarla. Sono il robo, così posso, ma penso più non che sia. Mi faccio quella politica che devo fare, metto quel cerchio, una toccatina, e via. La mia, cioè la macchina che può fare 300.000 km, non mi accusano. Allora io ti parlo della Station Veo di mio cognato, ha fatto 350.000 km, non gli ha fatto mai un lavoro, niente, solo italiani, bombas, non gli ha mai fatto la marmitta, non gli ha mai fatto la frizione, non gli ha mai fatto nulla. Si è ripreso la stessa macchina di un altro colore, perché ha detto che cambiava colore, però la macchina non ha cambiato. Se ne ha preso un'altra perché c'era un medico di chilometri, ma ha detto che quando l'ha versata la camminava come il primo giorno che l'ha presa. Ed era una Opel, e la Opel ha la stessa, diciamo, fattura della Volkswagen, come durata di motore, di costo. Scusate, non ti mi hanno chiamato. Come dico? Scusate, non ti mi hanno chiamato, chiedo scusa. Carta, prego, faccia come se fosse in casa sua. Ah, sei un razzo, sei una cazzo, ti dici da sotto. Io non l'avrei data nemmeno una bella macchina, cazzo, perché la devo dare. Non penso che anche Medellino si racconti. No, non è contenta per niente, sai. E tu vuoi utilizzare un buco, è piccolina, questa che c'è una macchina spaziosa, che cammina, è bella, c'è cosa da mettere, una macchina inferiore. Tu devi considerare anche gli anni, la valutazione, tante cose, la sicurezza che c'è la paura di sinistri, sono tante le cose. Ma l'ho fatto credo, faccio un po' di tu, va, attendiamo. In qualche maniera la camperemo, calma. L'è campata con uno stato lavorando, se questa lavorando ce la fai ancora di più a campiarla. Pensaci bene prima di darla, sai, ci vuoi un consiglio da amico disinteressato, perché a me, che più la camerò poi vedi tu, però se vuoi un consiglio da amico te ne dico. Quella lì anche se è più vecchia di quella che prendi, ti durerà forse più questa qua che quella che stai prendendo. Sicuramente così, perché c'è un motore sotto, dai, un motore dove puoi dare fiducia, se vuoi andare dove vuoi andare, vai senza problemi. Tranquillo, si mette il gasolio a piedi, non ti molla. Cata, Ruggero. Piuttosto che prenderti delle scorregge di macchine che non fanno niente, mi avrei tenuto quella io. No, da voi li piglio, per carità, per carità di Dio. Marco ce l'aveva, ma mi curioso, se l'ha subito cambiato. Ma di chiaro ce l'aveva? L'ultimo tipo, non era manco, no, aspetta, ha già avuto l'Ibiza, ce l'aveva sui 3 anni, e poi adesso si è preso, come si chiama, la C4. È positivo, insomma questa sia con 2007-2008, non lo so, no, la cerchi la C40, la 16, mi sono messo, sono le ruote grandi. È considerata categoria 1004, però sul libretto 1005, a 3 cilindri, c'è un rumore strano, un motore, non mi piace il rumore del motore, il mio c'ha un rumore corposo, si sente la turbina che va, tappa. E che è un trattore, che cos'è il diesel? Quale? Quale? Sì, no, non c'è il diesel. Ma 3 cilindri, stava. 3 cilindri, sembra un gruppo elettrogeno pure. Qua si dice che i 3 cilindri non sono mai andati bene. E poi secondo me consuma un bel la macchina, sarà ma. Oh, sai, vedi tu, valuta, valutati 4 rotte, dici. E come valutazione, diciamo, c'è differenza di anni, capito? Insomma, per attentare 16.000, no? Prego, avanti. Ciao Antonio, ciao Savelio, ciao Gianni, buonasera a tutti. Ciao Massimo. Massimo. sera Massimiliano Bulldogger. Ma ascoltato, cara. Ma baciami le volte, per dove? Ega, ci sono anziate. Ciao, la manovrazione, non so se te lo ricordi. Oh già, così sembra, Massimiliano sembra Crisa, un pollicino, te lo ricordi? Già me lo ricordo a Pollicino, ma la voce. Pollicino non è quello che aveva la ragazza, che parlava con la ragazza. Ah, la bambolina. Bambolina, che parlavano la notte, tutti l'ascoltavano. Positivo. Quando mancava anche Fabietto, con la ragazza Daniela, Carbonati, tutti e due. Su camera cuiuba. Cara cara, ti sono messo lo piede. Usa, senti la radio spaga tutto. Reverber quello lì. Cosa ti stavo dicendo, Savi? Non sento io la policina, ma policino, amico tuo, con il carbone. Che è entrato ieri? Con il polo? Non lo so, però lo sentivo bene. E il dipolo? E l'altro con pugno? Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, che lo facciamo peggiorando le mie occhi. No, non stiamo dicendo per la pernacchia, quando è stata la chiavata che ha pagato. sembrava già con la panica senza verde. Ci possono mettere in cucca, sì. Che la cappa. 7 si può mettere in coppia con un altro? Sì, che si può fare, tutto si può fare. Con un accordatore? Questo non posso dire, non penso di sì, che ci vuole l'accordatore. Però si possono mettere 2747. Io se ne ci vuole un accordatore. Sette via, se ne prendi uno delle talette grande, te non sbagli. Se tu due, poi se invece che vedere uno ti fa la copiata a Vincenzo. Io già, però con 2747 ci vuole l'accordatore anche in macchina, lo sa? In macchina non lo fanno. Quando noi metti due macchina anche per lo spazio casino. Conviene più uno grande che due sovrapposti. Vabbè, io proprio di spazio già non ne ho. Ma guarda. Ma no, controllino. Passi di là. Guarda, qua sei 9 spaccato. 9 di segnale radio 5. Però mi sembra aver sentito Falchetto che mi chiamava e che mi salutava. Non so se è lui, eh. Avanti, se sei tu, Falchetto. Salutoni, buongiorno, da parte mia. Ciao, fai che ben ascoltato, ciao a tu. Ma con la 2001 stai usando? No, negativo, con la antenna del tetto solo, vai. Appoggiolo là. Perché mi sembra che l'altro giorno avevi attaccato la 2001 e mi arrivava il Santiago 7, forse, mi sembra una cosa del genere. Sì, confermato, confermato. Ma sono dentro casa, mi sono dentro casa. Abbiamo parlato del viaggio, poi sono salito a Moes, altro giorno.